denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cade giù, scende ancora il potere d'acquisto delle famiglie italiane, meno 1,1% secondo le ultime rilevazioni Istat, vale di meno il denaro di cui disponiamo per provvedere alle necessità della nostra vita di tutti i giorni, anche se in termini numerici, nominali, il reddito aumenta più 0,3%, ma lo sappiamo, contano anche i prezzi, quello che chiamiamo il costo della vita. In pratica queste indicazioni che abbiamo dato significano che con lo stesso stipendio si riesce a comprare sempre di meno e anche un leggero aumento della busta paga non è sufficiente a compensare. A questo proposito vedremo se gli 80 euro in più promessi dal governo, che dovrebbero arrivare a maggio nella busta paga di molti lavoratori, serviranno a cambiare le cose. I dati relativi al 2013 che vi abbiamo dato poco fa sono stati comunicati proprio in questi giorni. Il livello del potere d'acquisto complessivo delle famiglie italiane risulta il più basso dal 1995. Insomma, anche l'anno scorso le finanze delle famiglie italiane hanno accusato un po' di debolezza, sono fiacche e, per dirlo alla cuore e denari, c'è un sintomo in particolare che ci indica che non si sono ancora rimesse in forma. È il carrello della spesa. La riduzione del potere d'acquisto si ripercuote in modo diretto sugli acquisti e in particolare su quelli alimentari. E allora oggi a cuore denari parliamo proprio del vostro carrello della spesa in merito agli acquisti alimentari. Provate a descrivercelo. È un carrello più leggero? È il carrello di un discount? È il carrello di una spesona mensile ben progettata per risparmiare? Oppure è il carrello di una spesa quotidiana in cui si compra solo ciò che viene consumato per non buttar via niente? Cosa non riesce più ad entrarci o ci entra più raramente da qualche tempo a questa parte? Raccontatecelo, prendete in mano la vostra cornetta 800 24 0024 oppure, se volete, scrivete al 349 238 6666 o su Facebook o su Twitter. Già su Facebook da ieri molti ascoltatori hanno animato il dibattito. Abbiamo proposto agli amici che ci seguono sul social network se questa domanda: fate la spesa in base alla stagionalità o in base alle offerte? Per esempio, Lea ci aveva scritto: io vorrei farlo in base alla stagionalità, ma a volte perdo la percezione di cosa sia realmente di stagione, perché effettivamente oggi si trova tutto in ogni periodo dell'anno. Per esempio, dice Lea, le zucchine e i fagiolini sono convenienti quasi tutto l'anno. L'offerta per me ha molto appeal, devo ammetterlo. Buongiorno a Stefano Crippa, responsabile delle relazioni esterne di Feder Distribuzione. Buongiorno, buongiorno. Feder Distribuzione è l'associazione delle insegne più importanti della grande distribuzione, quindi diciamo dei supermercati che frequentiamo abitualmente. Ma saluto anche Dino Scanavino, presidente nazionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno presidente. Oggi naturalmente buongiorno. Con lei soprattutto daremo indicazioni concrete a chi invece la stagionalità dei prodotti della nostra terra non la guarda affatto. Più tardi, tra poco, tra un quarto d'ora, ci raggiungerà anche il nostro dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, con cui ragioneremo proprio dell'importanza che le nostre scelte di acquisto alimentare hanno sul nostro benessere e delle relazioni che hanno con le stagioni dell'anno. E quindi raccontatecelo anche voi all'800 24 0024. Fate la spesa in base alla stagionalità o in base alle offerte? Preferite farla al mercato o al supermercato? E cominciamo subito con il nostro carrello della spesa. Comincia l'interrogazione a Stefano Crippa. Carrello della spesa che ormai è diventato uno dei test più attendibili, più importanti, più significativi per capire lo stato di salute del portafoglio della famiglia italiana. Ci dai gli ultimi dati a disposizione di Feder Distribuzione? Cosa state notando? Sì, è vero, il carrello della spesa in questo momento è un termometro di quello che sta succedendo nel paese ed è figlio della crisi che stiamo vivendo e di come questa crisi poi ha impattato molto anche sui comportamenti d'acquisto e di consumo delle famiglie, perché questo va ricordato ed è un elemento molto importante. Questa crisi sta cambiando il consumatore in maniera strutturale. Noi siamo convinti che quello che stiamo notando in questo momento continuerà anche negli anni successivi, quindi non siamo di fronte un fenomeno che poi smetterà e tutto tornerà come prima. Quindi è un carrello figlio di quello che sta succedendo, un consumatore che è diventato più consapevole, più razionale, compra semplicemente quello che davvero gli serve fa una seria analisi dei propri bisogni e quindi nel momento in cui si trova di fronte allo scaffale cerca di selezionare i prodotti, è un consumatore che è anche più difficile da targettizzare, mentre una volta potevamo dire che chi era dallo scontrino medio si faceva un profilo molto chiaro. Esatto. Adesso è molto più complicato, cioè lo stesso consumatore o la stessa famiglia, in base a quelle che sono i propri bisogni e la percezione di valore che dà ai diversi prodotti, può comprare magari detersivi dal discount, però su alcuni prodotti comprare per esempio biologico, perché è convinto che la salute, il benessere eccetera siano elementi fondamentali nella propria alimentazione, nel proprio tenore di vita. Quindi tutto questo poi si riflette nel carrello e se dovessimo dire così, che cosa notiamo come tendenze nel carrello? Allora, sicuramente la convenienza è un dato di fatto. Quindi caccia le offerte, le promozioni. Voi sapete che ormai quasi un terzo della spesa viene fatta in promozioni, sconti che continuano a crescere rispetto al passato. Ormai siamo sostanzialmente vicini al 30-35% di sconto medio, una volta era al massimo 35%, adesso spesso troviamo il 50%, quindi insomma, quando lei mi diceva che c'è questo cambiamento strutturale nel consumatore, io le avrei voluto chiedere come sta affrontando la grande distribuzione questo cambiamento. Le offerte sono sempre più drastiche. Le offerte sono uno certo, sono uno degli strumenti. Poi il consumatore cerca anche comunque di salvaguardare il proprio tenore di vita, quindi le proprie abitudini di acquisto. Allora notiamo quello che noi chiamiamo una sorta di diminuzione, di downgrading della spesa complessiva, cioè da marche che costano tanto a marche che costano meno, meno grandi marche e più marca dell'insegna del distributore, che consente un risparmio significativo a parità di qualità. E quindi tutte considerazioni nel tentativo appunto di salvaguardare comunque quelle sono i tenori di vita, perché poi notiamo che a fianco di questa ricerca di convenienza però ci sono anche, abbiamo parlato prima dei prodotti biologici, però prodotti integrali, quelli salutistici, quindi c'è una crescita anche di questi tipi di prodotti, perché comunque stiamo vivendo nel 2014 e quindi le abitudini alimentari vanno in una direzione che comunque... E comunque insomma diciamo che l'italiano medio ha la qualità di quello che mangia, non cerca di non rinunciarci. Tra le strategie che gli italiani mettono in campo per risparmiare quando si fa la spesa ce ne sono tante. Ce n'è una che nella nostra introduzione non abbiamo citato, ma ce la segnala immediatamente Emiliano da Pisa, che dice io faccio spese in modo oculato, compro i prodotti industriali sotto scadenza con il 50% di sconto, altro che stagionalità. E effettivamente adesso non so esattamente lui che cosa intenda, ma se andiamo al supermercato ci sono proprio quelle aree dedicate ai prodotti che sono in scadenza e che hanno questi sconti molto importanti. Sono prodotti freschi più assolutamente, che prodotti industriali, ci sono gli yogurt, insomma, formaggi freschi e quant'altro. Vittoria invece si scandalizza un po' per quello che abbiamo detto. In che mondo vivete? Ma chi frequentate? Ma chi è che fa la spesa e poi ne getta via una parte? Vittoria, chi più chi meno, capita a molti di noi che qualche cosina nel frigorifero magari vada a male, perché io per esempio sono sola, faccio spesa in maniera abbastanza limitata proprio per evitare che succeda questo, ma qualche volta se si sta via un po' più giorni del solito, una mela che marcisce. Adesso non dico di buttare via 100 euro al mese di spesa, ma qualche cosina succede insomma. Però Vittoria ha ragione. L'attenzione a non sprecare è un'altra delle caratteristiche che abbiamo notato nel consumatore, la grande attenzione verso questo tipo di consumo oculato, tant'è vero che le grandi confezioni per esempio non vanno più tantissimo, cioè o uno ha realmente bisogno perché è una famiglia numerosa, altrimenti cerca di andare a prendere anche dal punto di vista proprio della confezione quella che è più adeguata al proprio consumo. Il formato convenienza, devo dire che anche i centri commerciali grandi, i supermercati non ne propongono più tanti. Esatto, vero? Proprio per questo. Ci sono, l'altro giorno a Venitari abbiamo fatto anche un interessante dibattito sul formato di una bottiglia di vino da 500 ml, perché diceva ma perché 500 ml? Il vino tradizionalmente sono 75. E in realtà hanno detto perché il consumatore spesso ha anche un limite di spesa, cioè si impone di andare al supermercato e comprare non più di 40, 50, 60 euro. Allora a quel punto... Perché deve rinunciare al vino, gli diamo un formato che gli faccia risparmiare un po', quindi ha una diciamo, battuta di cassa, diciamo così, un po' più bassa, però si può concedere il vino. 800 24 00 24 il numero verde per prenotare i vostri interventi. Sono già pronti Camillo da Napoli, Franco da Varese, poi andremo a Dino Scanavino, ma intanto vi preannuncio che il dottor Attilio Speciani è arrivato e quindi lo faccio salutare i nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bello, oggi ho sentito entrando discussioni interessantissime, esatto, su come si mangia. È un campo fantastico. Esattamente, soprattutto se si mangia bene, naturalmente, e questo ha un impatto e una ripercussione diretta sulla nostra condizione di salute. Allora andiamo a sentire Camillo da Napoli, sentiamo un po' come è cambiato il suo modo di fare la spesa. Camillo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Intanto ci racconti un po' come è formata la sua famiglia. Ma è una piccola famiglia, siamo in tre, io, mia moglie e mio figlio. Uh-huh. No, però in generale ho la fortuna di poter scegliere di poter scegliere i prodotti e di scegliere quello che mi piace, non ho problemi di spesa, però vedo, non lo so, cioè, mi sembra una follia collettiva dell'ultimo secolo sul cibo in generale, sulle grandi qualità, sui grandi prodotti regionali, parlo anche di Italy, di eccellenze, eccetera. Però mi sembra più una follia che poi una cosa pratica, perché non ci si arriva poi per molte persone. Cioè lei dice, quando se volessimo puntare alla qualità i prezzi si alzano, la famiglia Meda non riesce, però non ce la fa assolutamente. Anche per esempio l'intervento di prima del signore, che non ricordo il nome, sulle bottiglie da sì, mezzo litro, lì più che un discorso di permettere di comprare il vino è un discorso di gestione. Io consumo il vino va consumato, altrimenti si perde. Il mezzo litro sono anni che cioè, ci sono persone che lo chiedono e nessuno l'ha mai prodotto. Adesso probabilmente l'hanno capito i grandi prodotti. Certo, Camillo, meglio tardi che mai, che cosa dobbiamo fare? Meglio tardi che mai, però voglio dire, doveva arrivare, dice lei, non poteva permettersi quella da tre quarti, si permette quella da mezzo litro. Chi non si può permettere un buon Chianti piuttosto che un Aglianico non se lo potrà permettere anche nel mezzo litro. Quindi è solo un discorso commerciale delle aziende. E quindi Camillo, guardi, mi faccio fatica a capire, a capire la conclusione alla quale vuole arrivare. No, la conclusione è che la verità di fondo è che neanche la classe media riesce più ad avvicinarsi vicino a dei prodotti. I cash, gli sconti permettono, oppure il signore che compra i prodotti in scadenza. E i prodotti in scadenza sono un gran pericolo per chi non riesce. Ma Camillo, questo non è vero. Devo dire che anche in altre puntate, forse Stefano Crippa se lo ricorderà, quando abbiamo toccato il tema del comprare i prodotti che sono scontati al 50% perché sono in scadenza, qualcuno considera questa abitudine di molte famiglie come qualcosa di molto, non lo so, qualcosa di cui vergognarsi, come se poi fosse giusto che quelle cose vadano buttate perché qualcuno non le compra. Cioè, no, difatti la mozzarella che è al 50% perché scade il giorno dopo e magari qualcuno la compra, ci fa la cena, non vedo che cosa, esatto, ci sia di problema. È anche un problema, se vogliamo, di organizzazione familiare, nel senso che chi ha la possibilità di comprare il prodotto e poi consumarlo subito, perché dovrebbe rinunciare a questo, esatto, tipo di opportunità? La casalinga che riesce anche a gustarci una mezz'oretta al giorno di supermercato, ma magari me lo potessi permettere. Fatto, nessuno si stupisce di questo tipo di atteggiamento con gli aerei acquistando i biglietti, e perché dovremmo stupirci. Esatto, ma guarda, è una cosa veramente sorprendente. Ad ogni puntata esce sempre il commento di qualcuno che è molto scandalizzato da questo. Andiamo però alla frutta e alla verdura, perché sta arrivando l'estate, abbiamo bisogno di rimetterci in forma, cambiare la nostra alimentazione cercando qualcosa di più fresco e più leggero, e quindi per molti frutta e verdura nei prossimi mesi saranno i grandi protagonisti del proprio pasto. Che prezzi troveremo quest'anno? Dino Scanavino, presidente nazionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, al quale naturalmente chiedo anche un po' un commento su quello che ha sentito fino ad ora, ma soprattutto le chiedo le condizioni di questo inverno mite. La mia fruttivendola si lamenta perché le verze quest'anno non ha potuto venderne molte perché non c'è stato sufficiente ghiaccio, vero? E su quali altri prodotti c'è una conseguenza delle condizioni climatiche, presidente? Beh, in effetti le condizioni climatiche influenzano i consumi, l'approccio dei consumatori a determinati tipi di frutta e verdura. Per esempio i cavoli sono un esempio lampante, poi le patate hanno subito, soprattutto nell'ultima fase, un abbandono dell'attenzione dei consumatori, perché col caldo, col clima mite, si abbandona questo tipo di verdura e si va di più sulla verdura più fresca, insomma, le insalate, le cose più... Certo. Ma i prezzi invece? I prezzi invece, Presidente? I prezzi sono in ribasso costante e sono in ribasso sia i prezzi che i volumi al consumo, e sono in ribasso anche alla produzione. Tenga conto che noi abbiamo avuto nelle campagne italiane un mese di gennaio di allagamenti e di riduzione della produzione, no? Emilia Romagna e tante altre, Toscana, tante altre regioni d'Italia, però questo non ha mandato in tensione il mercato, perché per fortuna importa, e quindi sì, no, questo sicuramente c'è, come dicevo prima, i rappresentanti di Federdistribuzione, una costante promozione dei prodotti che a volte si scarica anche e soprattutto per quello che rappresento io sui prezzi al campo, no? Certo. Perché poi le promozioni le paghiamo, molte volte paghiamo noi, insomma. Ma Presidente Scanavino, a parte le condizioni meteorologiche e quello che è successo nel mondo appunto dell'agricoltura a causa di questo, ci spiega invece dal vostro punto di vista come sta cambiando il consumo di frutta e verdura da parte degli italiani, visto che appunto questi italiani sopportano questa riduzione del loro potere d'acquisto? Quali sono i prodotti del settore agroalimentare che vengono acquistati meno? Ma ovviamente sono i prodotti più quelli che sono più cari, cioè quelli più raffinati, le primizie e le cose che arrivano, che una volta le famiglie potevano permettersi o qualche volta in più. Oggi si tende a non comprare gli asparagi, le primizie, ma comprare quelli che arrivano poi a quantità più costanti, perché costano meno ovviamente, no? E quindi non c'è una scelta sulla tipologia, c'è una scelta, è il prezzo che determina le scelte, evidentemente, insomma, anche le promozioni sempre abbiamo anticipato, grazie Presidente, abbiamo anticipato un tema del quale avremmo voluto parlare alla ripresa di Cuore e Denari dopo le 11.30, ma questi asparagi, dottor Speciani, dobbiamo invece analizzare immediatamente. Lui dice chiaramente sono a prezzi un po' alti quando sono delle primizie, ma ormai stiamo entrando invece, siamo nella stagione di questo alimento che è molto apprezzato dagli italiani, e quali qualità ha, insomma, per la nostra salute, perché ci fa bene? Ma direi intanto l'asparago esprime l'uscita dalla terra, che è un elemento fondamentale, quindi c'è dentro anche tutta una sensazione di risveglio. Poi devo dire ha operativamente degli ottimi contenuti, in particolare questo ne parliamo con tranquillità, anche perché palesemente l'asparago lascia traccia di sé, no? Perché uno mangia gli asparagi, poi quando va a far pipì si accorge che ha mangiato gli asparagi. Chi ad esempio utilizza alcune ottime sostanze antiossidanti, tipo l'acido lipoico, che è uno dei prodotti che si utilizza come forte sostegno in molte situazioni patologiche, ma anche in condizioni di prevenzione, dice: ma io poi sento effettivamente l'odore di asparago. Esatto, perché è uno dei forti contenitori di acido lipoico, quindi c'è una bella azione. Però fondamentalmente io credo che tutto ciò che sgorga, nasce, viene fuori dalla terra in una fase iniziale della primavera, nella tradizione, la raccolta nei campi delle insalatine, delle piccole cose, ha dentro degli spunti che sono ben più, sono sostanze, auxine, gibberelline, sono sostanze che non sono necessariamente delle vitamine, ma sono la ricchezza di qualcosa che fiorisce, come dire. Questo lo si vede anche in ambito medico, talvolta trattare una persona con il frutto oppure con le gemme o i giovani germogli è diverso. I giovani germogli hanno dentro qualcosa di loro, di naturale, di stimolante, che noi in primavera cerchiamo, è il momento del risveglio. Dai. Ottimo. No, allora adesso ci fermiamo. torniamo perché abbiamo la borsa, ma naturalmente continuate ancora a prenotare i vostri interventi all'800240024. Andiamo a fare la spesa con voi questa mattina. L'avete già fatta? Cosa metterete oggi in tavola? Raccontateci soprattutto che frutto e che verdura ci sarà nel vostro pasto, quali sono i vostri preferiti e soprattutto che prezzi trovate. Quanto costa un chilo di asparagi? Raccontatecelo, perché io adesso non me lo ricordo. Vediamo il primo ascoltatore che risponde e ci dà anche un buon prezzo. Regaliamo un libro della libreria di Cuore e Denari. Cuore e Denari. Sì, è primavera, si risvegliano un po' tutte le nostre, magari, che ne so, i nostri buoni propositi, anche intanto per metterci a dieta, dottor Speciani, per essere in forma quest'estate. Mi sembra giusto. La natura ci mette a disposizione quanto di meglio c'è dal punto di vista della frutta, della verdura, degli ortaggi per aiutarci in questo compito. Non solo i prezzi, peraltro, scegliendo i prodotti di stagione, sono più convenienti, ma anche la salute ci guadagna, perché la natura fa le cose per bene e ci mette a disposizione gli alimenti giusti nei tempi giusti. E allora stamattina stiamo discutendo di tutto questo, mettendo un po' anche a confronto i vostri diversi carrelli della spesa, col dottor Attilio Speciani, ma anche con Stefano Crippa per Fede Distribuzione e Dino Scanavino, presidente nazionale della CIA. Abbiamo lanciato la provocazione agli ascoltatori sugli asparagi. Sapete quanto costano al chilo? C'è chi ci scrive 9. Il dottor Speciani stamattina ha fatto un'indagine per noi al mercato e ha trovato invece 4 e mezzo. Molto più conveniente. Scanavino, lei invece ci dà che indicazioni dal punto di vista dell'operatore del settore? Beh, quello che mi risulta è alla vendita dagli 8 ai 12 euro al chilo. Costano quasi come un diamante, eh? Scanavino? Sì, ma è un po' presto per gli asparagi italiani. Ecco. Invece in realtà poi un po' anche l'altro tema grande che troviamo quasi tutto al supermercato tutto l'anno. Tra l'altro, Crippa, io ieri sera ho trovato le fragole spagnole perché sono andata al supermercato e mi sono messa lì di punta per vedere un po' che origine avessero i prodotti, appunto, soprattutto nel settore vegetale. Ste fragole spagnole. Ma adesso le fragole effettivamente sono comparse sugli scaffali, c'è la Pasqua e quindi si vuole si vuole dare la possibilità di fare le cose in grande anche proprio per il pranzo pasquale. Però questo discorso della frutta esotica che ha un'importanza così elevata è un mito, credo che debba essere sfatato, perché anche se è vero che alcuni prodotti stanno allungando la loro stagionalità, no? E quindi mentre una volta si trovavano, non so, gli asparagi soltanto per 15-20 giorni perché questo era il periodo in cui venivano prodotti, adesso effettivamente le stagionalità si allungano un po'. Però poi, come diceva anche il presidente della CIA in precedenza, quando si tratta di primizie i prezzi sono più cari, quando ci sono le code di stagione anche in mezzo. Tra l'altro la primizia significa che quanto tempo prima un prodotto lo troviamo rispetto a quella che sarebbe il suo naturale momento? Magari qualche settimana prima può anche essere qualche periodo un po' più lungo, insomma, magari come è successo per le fragole può non essere un prodotto italiano, no? Perché si può magari matura prima in Spagna piuttosto che in qualche altro paese, quindi c'è quando ci sono le code, diciamo, della stagione un po' più di prodotto estero rispetto a quello nazionale. Però poi dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo di fronte a un consumatore che è assolutamente intelligente, quindi se noi mettiamo insieme quello che è, per esempio, nell'ambito della frutta, il consumo di frutta esotica, alla fine siamo a meno del 5%. Quindi poi effettivamente è la gente, che ci si toglie solo, certo, ogni tanto la gente poi compra prodotti stagionali. Ada dalla provincia di Alessandria, gli asparagi li coltivava anche. Buongiorno. Buongiorno, vi volevo fare i complimenti perché siete le donne più simpatiche in assoluto. Grazie. Ringraziamo anche noi. Guarda, ho due ospiti indisciplinati stamattina. Mi dà l'occasione per salutare la nostra Nicoletta, che stamattina aveva un impegno personale e mi ha lasciata qua da sola, ma speriamo di tenere botta fino alla fine. Grazie Ada. Ci dica un po' allora per gli asparagi, qual è la sua? Ho sentito che parlavate di asparagi. Sì. Ed è una verdura che, come ho detto alla signora, io coltivavo quando ero giovane, adesso ho tanta voglia, però rimangono e allora qualcosa raccolgo, non devo quindi comprarli, sono naturali, però sono malata di rene, una lieve insufficienza renale, sono stata operata tanti anni fa, un rene e mezzo, pieno di cisti, E ho paura a mangiarli, nel senso che mi hanno detto che non fanno bene ai reni. Mm-mm. Allora volevo sapere se è vero, se posso permettermi di mangiarli. Almeno con un pochino di moderazione, Ada, dice, ma visto che faccio tanta fatica, dottor allora, Speciale. L'asparago proprio viene usato in medicina tradizionale, in cucina, proprio per stimolare la funzione renale. Come ho detto prima, ha una forte valenza antiossidante. Quindi, come sempre in medicina, e soprattutto quando si utilizzano non farmaci, ma delle sostanze naturali, che ci dà la terra, si tratta di non fare diventare l'uso dell'aspargo una sorta di carico mostruoso, nel senso che nella misura in cui lei si utilizza la sua porzione di aspargi, le sue due porzioni di aspargi, anzi, se posso dire, magari utilizza il brodino in cui ha bollito per farci un risotto piuttosto che altri elementi di questo tipo, lei ha un'azione di stimolo lievemente, di favorimento della diuresi, quindi stimola lievemente, non spinge, non stressa il suo rene, lo aiuta, lo stimola in maniera lieve. È ovvio che se dovesse mangiare 22 kg di aspargi il giorni, problema si pone, ma questo vale anche per tutti, vale anche per il risotto, voglio dire, non per l'aspargo. Comunque, quindi è positiva l'azione diuretica dell'aspargo. Mentre, dottor Speciani, ieri preparavamo la trasmissione, conoscendo appunto i suoi studi sul tema delle infiammazioni alimentari, mi chiedevo se ci sono, noi chiaramente raccontiamo molto spesso delle sue teorie sul tema del frumento e di determinati alimenti che fanno parte molto diffusa appunto della dieta degli italiani, ma per esempio ci sono anche dei vegetali, della frutta o della verdura che possono provocare infiammazioni di cui lei parla spesso? Ma, sì, nel senso che talvolta ci sono, noi sappiamo che la popolazione media italiana purtroppo abusa di antinfiammatori, di analgesici, di sostanze, vado senza fare nomi commerciali, però tutti quelli che usiamo per la febbre, per i dolori, per l'artrite, per le cose, eccetera. C'è chi non ha nessuna tolleranza al microscopico allora, dolore. Questa cosa porta ad un aumento, e nella frutta e nella verdura ci sono alcune sostanze simili ai salicilati naturali, quindi a volte nascono delle reattività particolari. Devo dire, non, per fortuna non è una situazione frequente, però persone che soffrono di orticaria, di rinite importante, di roncopatia, cioè russano un mucchio per dire, eccetera, no? sono spesso sensibili ai salicilati. Lati devono guardare la frutta e la verdura con un po' di attenzione, ma non perché è colpa della frutta e della verdura, è perché stanno mangiando, è colpa dei farmaci che stanno prendendo, che sono in parte similari. Anzi, questo ci dà l'occasione per dire che nella frutta e nella verdura, proprio perché devono difendersi, spesso ci sono sostanze vive, vitali, importanti, forti, che possono avere delle azioni positive sulla salute, e talvolta darci anche, per fortuna, sapori, gusti, perché quando noi sentiamo un sapore, un gusto, vediamo dei colori vivi, è proprio perché ci sono dentro delle sostanze che sono attive dal punto di vista biologico. Quindi ben venga, cioè preferisco avere quelle poche persone che hanno una reattività ai salicilati della frutta e della verdura, e però che gli altri ne mangino 5, 7, 9, 23 porzioni al giorno, che è la parte utile. 800 24 00 24, continuate ad interagire con noi come stanno facendo Giuditta, Rubino e Martina da Roma. Martina mi interessa perché è appena tornata dal supermercato e adesso ci racconta tutto della sua busta della spesa. Buongiorno Martina. Sì, buongiorno. Cosa ha portato a casa e cosa prepara oggi di buono? Io sto preparando uno sformato di patate. Però la cosa che avevo detto prima al centralino è che sono andata a fare la spesa al supermercato, al banco degli affettati, perché mi serviva il prosciutto e la mozzarella. Non ho comprato la roba in offerta per un semplice motivo. Allora, la roba in scadenza, due giorni prima della scadenza, io l'ho sempre acquistata, perché effettivamente consumandola il giorno stesso è più che buona. Però quello che ho notato oggi, c'era un prosciutto in offerta, prosciutto di marca, e un prosciutto non in offerta, anche di marca, con 20 centesimi letto di differenza. Quindi cosa fa? Quello in offerta, effettivamente, io il 50%, forse sto esagerando, il 30% l'avrei dovuto buttare perché era estremamente grasso. Ho capito. Quindi, cioè, non è sempre vero che il prodotto in offerta ti fa risparmiare. Possono essere anche delle scelte della del negozio, insomma, Crippa ha detto questo. Beh, evidentemente i prodotti ci sono, poi a seconda di come vanno si sceglie anche se metterli a condizioni più favorevoli sul banco. Sì, certo, in generale le promozioni sono fatte naturalmente per andare incontro al consumatore, perché il momento è quello che è dal punto di vista economico, e quindi però è chiaro che anche le offerte poi devono essere valutate in maniera attenta. Per esempio, può capitare che il prodotto in offerta anche del 30-40% costi comunque in più di più rispetto al prodotto dell'insegna della marca dell'insegna o di un'altra marca, perché naturalmente esistono posizionamenti molto diversi, esistono marche che costano molto di più rispetto ad altre, e quindi non, questa è un'attenzione che va posta, insomma. Le promozioni sono importanti, però magari se c'è il prodotto che ha il prezzo più alto in promozione bisogna stare attenti, perché magari poi c'è la marca che comunque costa uguale o costa meno rispetto però, a insomma, lei diceva giustamente, sono stata attenta, dice Martino, ho controllato, non è che ha visto il prosciutto di marca solamente, certo, perché era al 50% ha preso la portata a casa, in realtà si è accorta, ha fatto i suoi confronti e quindi ha scelto poi la, esatto, cosa che andava così meglio bisogna fare, per insomma la sua famiglia. Allora andiamo adesso, no, a 45 non posso andare proprio da nessuna parte, devo andare a sentire cosa succede sulle strade italiane. Cuore e denari. $530 di sconto, è il 98% della spesa. L'undicesimo comandamento è non pagare il prezzo pieno. Ho i buoni per queste. Dici che ci bastano le 40 scatole che abbiamo a casa? Sono pronte a tutto pur di risparmiare. Scoprirete le loro strategie segrete per ridurre a zero uno scontrino da $1,000. Vivrete attimi di terrore alla cassa e farete la spesa come non avete mai sognato di farla. Siete pronti per la sfida? Eccoci tornati a Cuore e Denari, pazzi per la spesa, una serie di gran successo negli Stati Uniti, qua noi non abbiamo una uguale cultura per il couponing, così si chiama, poi magari faccio un commento con Crippa su questo, ma in ogni caso anche se non siamo pazzi per la spesa come gli americani, lo siamo perché vogliamo portare sulla nostra tavola prodotti di qualità, e stamattina stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori se la vostra spesa viene fatta in base alla stagionalità o quando c'è lo sconto, non ci fate più attenzione? Preferite fare la spesa al mercato o al supermercato? Come è cambiato il carrello della spesa o la vostra borsa della spesa? Raccontatecelo anche con un messaggio, oltre che a chiamarci all'800 24 00 24. Un ultimo commento con il presidente Scanavino della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Abbiamo tanti commenti da parte dei nostri ascoltatori sul tema delle fragole spagnole, presidente, altri che invece ci raccontano che prezzi stanno trovando questa mattina degli asparagi. Abbiamo prezzi molto più inferiori rispetto a quelli che ci ha indicato lei, 5,90, 6,50, Cittadella Bassano del Grappa, ci racconta un ascoltatore, e ci dica un po', senta, invece le altre verdure di stagione, cosa dobbiamo consumare in questo periodo secondo gli agricoltori? Ma guardi, stamattina si è parlato di asparagi che stanno arrivando e di fragole che stanno arrivando ormai fra poco, e qui ci siamo, in quantità importanti. Poi abbiamo ancora un po' di carciofi che arrivano ormai non più dal sud, perché la Sicilia, la Sardegna era finita, la Sicilia sta finendo, ma si spostano al nord, quindi fra un po' avremo quelli della Liguria, cioè cominciano ad arrivare. Poi le insalate che cominciano ad esserci, fra poco avremo i pomodori, e tra la frutta la prima ad arrivare sarà le ciliegie di produzione nazionale, e quindi cominciamo ad avere una stagione che ci propone tanta bella frutta e verdura buona, presidente, italiana. Poi la lasciamo perché so che lei stamattina ha un impegno, ci dà tre consigli, sì, anche da di buon senso, da buon padre di famiglia, per cercare di non sprecare frutta e verdura in questo periodo, perché chiaramente poi il portafoglio piange ed è un peccato. Dove andiamo? Tra l'altro so che ci sono anche grandi operazioni, li fa Campagna Amica con la Coldiretti, ma le fate anche voi appunto di queste strutture del produttore direttamente, dove si può oggi andare ad acquistare, e le famiglie italiane privilegiano sempre di più appunto questa modalità di acquisto. Certo, noi abbiamo il nostro marchio, si chiama Spesa in Campagna, invitiamo gli agricoltori ad venire nelle nostre aziende, i consumatori a venire nelle nostre aziende. Io credo che la frutta e la verdura vada acquistata in quantità non eccessiva. bisogna diversificare le tipologie, perché uno non si annoia e quindi la consuma tutta, no? E poi conservarla con attenzione. Conservare la frutta e la verdura non è come conservare altri alimenti, ci vuole qualche attenzione in più. E quindi per non sprecarla bisogna comprarne non molta, diversificarla e consumarla con attenzione e conservarla con attenzione. Credo che se ci si rivolge, quando si può, direttamente agli agricoltori, si abbia anche qualche vantaggio in più per quanto riguarda la freschezza e anche la conservabilità, dura qualche giorno in più. Poi c'è un contatto diretto con la produzione che fa bene, insomma, un po' anche allo spirito. E andiamo, no? A conoscere anche un po' il territorio, certo, bisogna aver tempo per andare a cercare gli agricoltori naturalmente vicini a noi, e questo purtroppo magari lo possiamo fare solamente nel weekend. Grazie al presidente Scanavino di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, buona giornata presidente. Grazie, buongiorno. Dottor Speciani, Scanavino diceva diversificare la tipologia della frutta e della verdura che si mette a tavola, sono i consigli che dà anche naturalmente un nutrizionista mediamente, no? Non mangiare sempre le stesse cose. No, assolutamente, direi che è uno dei punti focali. Dando valore alla quantità, perché in realtà uno dei mantra che noi utilizziamo nei nostri centri è proprio quello del crudo vivo e colorato, quindi infatti, da mangiare un pezzo, anche proprio di iniziare qualsiasi pasto, prima colazione compresa, con qualcosa di che sia o frutta o verdura, anche piccole quantità, tra l'altro questo ci aiuta ad aiutare quelli che i riottosi, diciamo, a iniziare a mangiarne una piccola quantità, che ha un valore perché induce tolleranza nei confronti degli alimenti tutti, apporta dei sali minerali, delle vitamine, e poi comunque mette in grado l'organismo di assorbirne altre. E questo concetto del crudo vivo e colorato, applicato devo dire anche in più situazioni, anche in situazioni sociali differenti, aiuta a riportare in equilibrio le persone. Stupire gli amici a cena una sera durante la pizza, mangiando, facendosi portare dal cameriere magari un pezzettino di mela o di carota. Ma sempre. Noi, perché quando vai in un ristorante e chiedi qualcosa di crudo vivo e colorato, nella percezione del cameriere medio è il pinsimonio tra un primo e un secondo. Invece adesso entro, ho imparato e dico: guardi, sono gravemente allergico, bisogna di mangiare frutta e verdura subito, altrimenti esco, e mi portano un pinsimonio, perché tutti mangiano crecherini, grissini e biscottelli quando si siedono a tavola, e poi appena hai lì invece dei bei gambi di sedano, delle carote, dei finocchi, dei pezzettini di insalata fatta a cespina, inizia a sgranocchiare, diventa ambito di discussione, si parla, si fa promozione di questo tipo di logica, e poi incredibilmente tutti si alzano da tavola, avendo mangiato meno cracker, grissini, biscotti, mangiato verdura, dicendo: ma sono più leggero, ma sto meglio, ma che interessante questa cosa. È un mantra positivo. Vale anche per il carciofo questa sua teoria? Assolutamente, perché c'è una mia amica che è veramente pazza per il carciofo crudo. Va d'accordo con me, assolutamente. Io devo dire, lo preparo, tra l'altro ci vogliono dei coltelli ben affilati. Nella mia storia ho questa immagine della mia mamma che li preparava mettendoli con un'acqua e limone un pochettino la sera, o quando li preparava per un poco, in modo che non diventassero poi colorati, mia scuri. Mia mamma mi sembra che dica: togli il nero, ma non me lo ricordo. Togli il nero, infatti restano vitali. Allora perché c'è dentro un po' di vitamina C che è antiossidante, e quindi evita l'ossidazione superficiale. Poi tagliati sottilissimi, che adesso abbiamo delle meravigliose affettatrici, ci sono delle cose fantastiche, le mandoline, cioè, quindi nessuna scusa si può fare bene. Quando sono belli sottili, non sono più difficili da masticare, sono fantastici insieme con un po' di grana, con un po' di gamberetti, con qualcosa, cioè con un tritino di caccia, sono anche da soli, francamente, con un goccio di olio e limone sono fantastici. Stefano Crippa, la grande distribuzione può sbizzarrirsi anche con la gastronomia. Sentito quante ricette stamattina? Certo. Ecco, tra l'altro, sui piatti pronti, per esempio, che possiamo trovare proprio in queste aree dei centri commerciali, i consumatori li frequentano molto, perché naturalmente abbiamo sempre meno tempo, più è pronto il pasto meglio è per noi tutti. Sì, devo dire che questi tipi di preparati stanno andando molto bene, i reparti di gastronomia sono sempre molto frequentati, riscontrano grande attenzione da parte del consumatore. Volevo solo tornare un attimo al discorso della frutta e verdura, perché è molto importante, perché effettivamente purtroppo stiamo notando come se ne consuma meno, cioè uno degli effetti di questa crisi è proprio che le vendite di frutta e verdura... Il fresco però, lei dice, sì, perché tutto quello che è già pronto mi sa che invece va di sì, più. Sì, però... Proprio tornando al discorso della frutta e verdura, se ne consuma di meno, proprio perché contrariamente a quello che stavamo dicendo adesso, c'è un po' la sensazione che di frutta e verdura, nel momento in cui devo stare attento alla spesa, ne posso fare a meno. È vissuto un po' come qualche cosa di addizionale a cui si può rinunciare. Perché questa è un po' la tendenza, no? Quando le prime cose a cui si rinunciano, parlando di alimentare naturalmente, quindi lasciando perdere tutto il resto, sono proprio i prodotti d'impulso, quelli di autogratificazione, eccetera. Lì si cerca di fare un passettino indietro per mantenersi. Insomma, in più questo momento di crisi economica, quindi, lei mi sta dicendo che gli italiani preferiscono portarsi a casa una scatola di biscotti al cioccolato piuttosto che una busta di spinaci. Sì. Tengono... Sanno che poi pagano di più dal medico in spese di mediche sanitarie. Questo varrebbe la pena di saperlo. Allora, adesso commenteremo tutto questo nella seconda parte del programma, ma entro breve, dottor Speciani, mi aspetto anche un suo post molto dettagliato su questo tema sul suo sito, su Eurosalus, perché è una tendenza da analizzare molto attentamente. Ci fermiamo, giornale radio, poi torniamo con Giuditta, Rubina e Silvana tra poco. Cuore e denari. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduglio. E parmigiano. Il bottegaio. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Poi ti fai dare una bella boatta di pomodoro, Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche te le piglie. Se no, desisti. Potevamo farci mancare la lista della spesa tratta da miseria e nobiltà, direi di no, ma noi siamo ritornati. Oggi parliamo di consumi, del potere d'acquisto delle famiglie italiane, del carrello della spesa, di come consumano frutta e verdura, naturalmente scegliendo i prodotti secondo la stagionalità. Con noi ci sono stamattina il dottor Attilio Speciani ed è rimasto anche Stefano Cripa, responsabile delle relazioni esterne di Feder Distribuzione. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Su Facebook Paola ci scrive: oggi per pranzo minestrone passato con crostini, pane recuperato, zucchine con aglio e basilico, qualche fettina di salame e frutta. Dottor Speciani promuove. Assolutamente promuovo, poi la scelta del salame può essere occasionale, non sistematica, se uno dovesse stare con un controllo sui cibi eccessivamente salati, ad esempio la scelta di un petto di pollo, di sostanze che possono essere meno grasse per chi ne avesse bisogno, però ogni tanto... Quello che si dice è quando ce vo, no? Occasionalmente. L'ha detta la marchigiana, come la dico io. E comunque noi oggi parliamo anche di scontrino medio, di come questa statistica sul potere d'acquisto delle famiglie italiane va letta e come si traduce anche tra gli scaffali del supermercato. Stefano Crippa, all'inizio siamo partiti un po' con un'analisi delle spese delle famiglie. Qual è oggi lo scontrino medio? È vero che si è ridotto, secondo le vostre ultime indagini, ma comunque la famiglia italiana va a fare la spesa appunto più frequentemente? Allora, lo scontrino medio naturalmente è molto variabile a seconda del punto vendita. Diciamo, se dovessimo fare nella grande distribuzione una media complessiva, stiamo parlando di 28-29 euro di valore medio, però con punte di 45 negli ipermercati, 28 quindi intorno alla media su un supermercato, più basso invece per un negozio più piccolino di 200-300 metri quadri o circa 20 euro per quello che riguarda i discount. Certamente lo scontrino medio si sta riducendo, con anche in qua delle intensità diverse, un po' più forte il calo negli ipermercati, un po' meno nelle altre formule. Sta crescendo invece, anche questo è naturalmente un sintomo dei tempi, lo scontrino medio del discount, che sta crescendo del 4-5%, quindi la gente in questo momento naturalmente si rivolge un po' di più a queste formule che garantiscono comunque una forte convenienza. E devo dire, il discount, questo è un altro segnale interessante, sta aumentando molto proprio come scontrino medio nel mezzogiorno e nel nord-est dell'Italia, che sono le due aree che forse sono state un pochino più colpite dalla crisi. Il mezzogiorno in generale, il valore dello scontrino nel mezzogiorno è molto più basso rispetto a quello delle altre regioni italiane. Stiamo parlando di differenze di 5-10% per le formule più tradizionali, per mercati e supermercati, e solo un 4-5% per quello che riguarda il discount. Però questo si vede molto, insomma, il mezzogiorno effettivamente sta soffrendo più delle altre parti. Per quello che riguarda invece la frequenza, devo dire che la frequenza d'acquisto adesso è abbastanza stabile. Parliamo di una spesa fatta ogni 5 giorni qualcosa, se dovessimo fare la media, quindi vengono le virgole anche su questa cosa, però adesso è abbastanza stabile, quindi effettivamente il calo dello scontrino medio riflette poi quello che è il calo della spesa effettiva che viene fatta. Ritornando invece un po' alla nostra frutta e verdura di stagione, dottor Speciani, non c'è stagione che tenga, c'è chi proprio la frutta e la verdura non riesce a mandarla giù. Quali sono i sostituti adeguati appunto per naturalmente comunque garantirci un'alimentazione equilibrata, perché non ci si può naturalmente neanche rimpinzare di succhi di frutta? Beh, intanto proprio utilizzo delle tecniche di lavoro, perché è drammatico, vedi persone che arrivano con delle situazioni di pelle che è sicuramente più vizza, di infiammazione, quindi trattenimenti di liquidi, vedi delle persone giovani. In cui faccio gioco, perché in genere appaio abbastanza bene nonostante i miei 59 anni, quindi faccio confronto. È vero, lo confermo che quindi riporta benissimo. Faccio confronto e dico: ma dai, ma come? Ma lei che ne ha solo 42? Ma dai, ma si rende conto? E cerco di indurre delle segnalazioni e parto con qualcosa di fattibile. Uno dei miei mantra specifici è di Bruce Sterling, che è il concetto di Maya, cioè il most advanced yet acceptable, cioè la cosa più avanzata possibile ma che sia accettabile dalla persona. Certo. Allora significa, mi muovo in questa direzione iniziando a dirti: guardi, io capisco e sono d'accordo con la sua situazione, lei non mangia, non sopporta, non ne può. Partiamo dal minimo indispensabile, ad esempio un pezzettino di finocchio, un morsettino di carota prima di, oppure iniziamo a fare un sugo, no? Il sugo lo mangia, sì, facciamo un sugo. Allora nel sugo, anziché farci solo il pomodoro stracotto, ci mettiamo dentro, come diceva prima Totò, no? Ci mettiamo dentro, che so, 3 carciofini tagliati crudi, ci mettiamo dentro un pezzettino di carota smistata, un'educazione proprio base graduale, perché tra l'altro questo aspetto è fondamentale, perché le persone si rendono conto, guardandosi allo specchio, che bastano 5, 6, 10 giorni di inizio di introduzione di sostanze vive e vitali perché cambi il colore della pelle, la tonicità, come quando si smette di fumare. C'è proprio un intervento. Allora io sfrutto questo tipo di meccanismo e cerco un'induzione, altrimenti ci vado un po' più duro prendendo in mano degli esami. Io lavoro anche a Londra. A Londra c'è una frequenza di persone con una carenza di vitamina D3 pazzesca. Perché? Perché oggi l'uovo, non si mangia più il rosso, si mangia solo il bianco per qualche degenerazione mentale. L'olio, no, ingrassa, si toglie di torno. Il burro è vietato, invece io sostengo che il burro crudo possa essere utilizzato da allora, e ci sono delle carenze. Quando le vedo con gli esami riesco a convincere la persona di integrare, e questo di solito è uno strumento che porta. Poi man mano, di fronte poi più allo stativo totale, ci sono dei supplements, delle integrazioni funzionali che devono essere utilizzate. Certo. Però cerco di arrivarci attraverso un aspetto motivazionale più utile, e poi le persone diventano evidente. C'è chi torna da lei completamente convertito poi, dottor Speciani, nel senso che ha veramente scoperto un mondo al quale prima, forse anche un po' per pregiudizio, non si era mai avvicinato, perché credeva che non piacesse la frutta e la verdura, e la verdura in particolar modo. Tocchiamo un tema anche psicologico, direi. Spesso ad esempio nei ragazzi oggi ci sono situazioni in famiglia che, quando parlo di ragazzi, che restano in casa fino ai 32 anni, no? Quindi ci sono famigliotte che vanno avanti, e io spesso spiego che a persone che non vogliono mangiare la verdura, la frutta, perché? Perché c'è la nonna che la mangia, c'è il papà che la mangia, allora loro devono, come dire, opporsi dicendo: io mangio diverso. Allora questo è un tema importante, lo spiego e dico: siccome per dimostrare di essere diversi dai propri genitori, che è una fase obbligatoria dello sviluppo di chiunque, si fanno delle scelte alimentari, uno non può sparare in testa ai propri genitori, no? Quindi obiettivamente fa questo tipo di scelta. Dopodiché dico: adesso però, scusi, c'ha 27 anni, certo, può iniziare a dire il sì e il no, e invece mettere a posto sta pelle che sta cadendo. Insomma, lei deve capire se si tratta veramente di una questione di gusto profondo o di contestazione familiare. Esatto, dopodiché si possono superare i problemi. Esatto. 800 24 00 24, ancora qualche minuto di tempo con i nostri ascoltatori per analizzare le nuove abitudini di spesa. Giuditta dalla provincia di Pistoia, mi scusi, l'ho fatta aspettare tanto, poi chiedere scusa anche a Silvana, ma andiamo un po' a sentire cosa fa lei. Allora, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo esprimere la mia esperienza. Sì. Io vado a comprare la frutta e la verdura ai GAS, che è un gruppo di acquisto solidale. Sì. Quindi si adoperano dei frutti di stagione freschi a chilometro zero. Certo. Quante famiglie siete, Giuditta, lì in provincia di Pistoia, almeno il suo gruppo d'acquisto? Quante famiglie mette insieme? Guardi, io vado a Porretta, perché sono qui vicino, siamo sul confine tosco-emiliano, dove mi trovo molto bene. Esattamente non glielo so dire. Però ci ritroviamo lì martedì sera e andiamo a comprare quello che, di cui abbiamo necessità, mm-hmm, e quello che c'è. Lei tra l'altro si impegna, perché lì si tratta anche poi di un coinvolgimento generale, no? Ognuno deve fare qualcosa, deve impegnare. Lei che cosa va a comprare? Io compro, ad esempio, non so, lei mi stava parlando, spesso ci possono essere anche delle erbette selvatiche, come gli astragi selvatici, piccole quantità perché bisogna andare a cercare, ah, ricchi di campo. E mi stava parlando il dottore che degli asparagi, ci sono dei produttori che portano gli asparagi, si crea un certo rapporto di fiducia fra produttore e consumatore. Guardi, per me i prezzi sono accessibili, è una cosa molto positiva a mio avviso, perché le persone la mangiano in un certo modo, sia la frutta che la verdura. La verdura è fresca, ripeto, e la frutta quando la si raccoglie al giusto grado di maturazione, certo, acquista, ha un gusto che è tutta un'altra cosa. Gusto, Giuditta, la ringrazio. Appena torna propongo a Nicoletta di fare una puntata esplorando il mondo dei gruppi d'acquisto. Le volevo dire questo, Deborah, sì, le volevo dire questo: queste persone non hanno la certificazione, perché questi produttori non si possono permettere l'onere di pagare una certificazione, però lavorano in modo, siccome non ci teniamo, però non tutti, cose, Giuditta, va bene, grazie, grazie per il suo suggerimento, che sicuramente di cui faranno tesoro anche molti altri ascoltatori. Vado a Silvana da Bari. Silvana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci dica tu. Grazie per avermi richiamato, che questo è un problema che a me interessa molto. Io lavoro e comunque sono molto attenta all'alimentazione, in particolare alla verdura e quanto ne mangio in quantità, diciamo, quotidiana, e sia verdura che frutta ai miei figli, siamo in quattro in famiglia. Però io ogni volta che vado a comprare la frutta, io generalmente vado nei mercati e non compro primizie, perché non mi va di forse buone, però io non amo la primizia, io amo la frutta di stagione, in Puglia ne abbiamo. E ogni volta che vado al mercato io i prezzi ovviamente sono un po' più accessibili forse che al nord, perché qui abbiamo comunque coltivatori che portano e sono molto vicini, e quindi abbiamo la verdura. La cosa che a me ogni volta mi va di pensare è a queste povere persone anziane che, costrette a mangiare verdura per ovvi motivi, devono quasi andare al mercato, sembra che facciano elemosi. Io ho veramente un grande dispiacere per questo. Non ho capito per quale motivo, Silvana, perché? Perché trattano, negoziano sul prezzo in maniera... per quale motivo? A parte il fatto che io ho notato che adesso l'acquisto è di non più un chilo di zucchina ma due zucchine, una zucchina, cioè si sono ridotte le quantità, perché i costi sono eccessivi, considerando quello che loro prendono di pensione. Silvana, grazie. Magari, mi scusi, gli 80 euro che si vogliono dare a chi invece, perché non vengono devoluti alle persone aggiunte? Silvana, qua lei ha aperto adesso un altro dibattito che questa mattina non abbiamo il tempo di fare. Intanto partiamo con questi 80 euro per 10 milioni di famiglie, che vediamo che cosa mettono in moto. Credo che si stia pensando anche a qualche altro intervento su chi ha redditi più bassi, su tutta la fascia degli incapienti. Silvana, detto questo, lei ci ha offerto insomma uno spaccato che nota tutti i giorni su chi comunque riduce anche la sua spesa, anche al mercato, ma soprattutto ha fatto questo commento su chi pensa che andare al mercato sia qualcosa un po' più di svilente, non lo so. Crippa, lei che ne pensa? Adesso vabbè, lei ci parla della grande distribuzione, no, però no, ma io non penso che andare al mercato sia... io ci vado il sabato mattina, certo, non mi vergogno affatto, mi piace un sacco vedere tutto questo movimento e comprare la frutta, la verdura buona. Ci sono anche un sacco di famiglie che alternano varie formule, una volta vanno al supermercato, una volta al mercato. Insomma, le uova costano poco, quante a settimana? Ridiamo un po' le regole del consumo delle uova, dottor Speciali. Uova, chi ha mai detto che sono pessime? Dunque, no, sull'uovo italico è stato fatto, io ripeto, nella mia infanzia c'erano addirittura le uova sode nei bar, come spesso si trova in Francia, e dovunque si andasse c'era l'ovetto da bere, perché faceva parte della normalità tenere la gallina nel backyard, nella stanza dietro, nero nel pollaio vicino. In realtà il motivo per cui le uova sono state criticate è perché hanno un teorico contenuto di colesterolo, finché questo per anni ha contribuito, secondo me, qui mi darà Crippa ragione, alla spinta del mercato di tipo carneo o di tipo lattiero caseario specifico, per scoprire che il colesterolo ce lo costruiamo dentro e non dipende da quello che mangiamo. Quindi le uova sono state recentemente rivalutate, sono serene. Io stupisco le persone che incontro dicendogli: caspita, un bel rosso d'uovo, certo, pieno di vitamina D, fantastico. Dice: ma c'è il colesterolo? Ma se lei cammina, se lei mangia dei cereali integrali, se fa le cose giuste, il suo colesterolo non se lo produce, si mangi tutte le uova che vuole. Sono a basso costo, sono un'ottima fonte proteica, non fanno male a nessuno, non uccidono maialini, animali che vanno a colazione. Colazione, fantastico, sono tra le cose che suggerisco di più, quindi benvenga questo tipo di logica. Alberta intanto ci scrive: io mangio 5 verdure al giorno e 2 frutti dopo aver avuto un infarto, ma che fatica. Alberta evidentemente non era molto convinta del consumo di frutta e verdura per questioni di gusto, ma direi che queste sono anche le porzioni adeguate, dottore Speciale. Ci sono, non solo, stanno emergendo dei dati in cui il più è meglio, nel senso che io mi è venuta immagine di una recente situazione di un convegno, e io passavo attraverso i buffet mangiando l'insalatina che stava sotto, no? Cioè c'erano delle cose tipico palesemente industriale, e io mi tiravo fuori le basi, delle fette di arancia, delle fette di ananas messe sotto a delle cose che secondo me non piacevano, e io mi mangiavo le guarnizioni perché è assolutamente, dai, un po' di crudo, di vivo, di colore fanno bene. Poi ci concediamo anche le altre cose, dai, però quello rimane base. Insomma, sarà perché noi facciamo tante puntate su questo argomento, sarà per i reality show, sarà per tanti altri argomenti, il cibo è diventato uno dei temi di cui si discute di più in assoluto, oggi più che in passato. La storia celebra i campi di battaglia dove troviamo la morte, ma non parla dei campi coltivati che ci danno la vita. Jean-Henri Fabre. Una citazione meravigliosa che ci porta all'iniziativa di cui vogliamo parlarvi brevemente. Domani prende il via a Genova la 5ª edizione della Storia in Piazza, 4 giorni di incontri, conferenze, spettacoli, mostre e laboratori organizzati dalla Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale. Quest'anno l'iniziativa si intitola I tempi del cibo, ne è curatore il professor Donald Sassoon, che è in collegamento con noi, che stasera alle 18 a Milano sarà protagonista con la sua lezione Il pane quotidiano nella storia. Un'anteprima di questa edizione. Professor Sassoon, buongiorno. Buongiorno. So che lei poco fa ha terminato la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa genovese. E allora, perché venire a Genova in questi 4 giorni? Di cibo sentiamo già tanto parlare. Quali saranno le nuove declinazioni di questa discussione? Ma noi cerchiamo di guardare il cibo da un punto di vista storico, cominciando dalla rivoluzione neolitica, l'invenzione dell'agricoltura, che ci ha permesso di non essere più così nomadi, di coltivare i campi e gli animali e dunque creare la civiltà. E poi da lì ai grandi traffici del cibo, il traffico delle spezie, la scoperta del nuovo mondo e con la scoperta del nuovo mondo la scoperta di cibi che hanno completamente rivoluzionato le nostre abitudini gastronomiche. Basta pensare a quello che ci viene dal nuovo mondo, la patata, il grano turco e tra l'altro anche il pomodoro, senza il quale la cucina italiana sarebbe ben diversa da quello che è oggi. E invece che cosa contiene, professor Sassoon, la sua lezione sul pane quotidiano nella storia? Beh, io comincio appunto dalla rivoluzione agricola, mi soffermo sulla prima grande globalizzazione, che è quella appunto della scoperta del nuovo mondo, ma mi soffermo soprattutto su quanto si mangiava male nella ricca Europa dell'Ottocento. Cioè, si pensa sempre all'Europa dell'Ottocento come in fondo erano i posti più ricchi al mondo. Mm-hmm. E il cibo quotidiano per la stragrande maggioranza della gente era una specie di scialba polenta con poco lardo ogni tanto, cioè gli europei stessi mangiavano malissimo, gli svizzeri, oggi tra i paesi più ricchi del mondo, nel 1800 mangiavano quello che mangiano tra i paesi più poveri al mondo oggi. E insomma, in Africa. Permetterà di tornare indietro nel tempo. Io la ringrazio, professor Sassoon, purtroppo devo chiudere, ma abbiamo capito lo spirito che animerà questa iniziativa di Genova, la 5ª edizione della Storia in Piazza, ricordiamo quest'anno intitolata I tempi del cibo. Grazie, grazie anche ad Attilio Speciani e a Stefano Crippa per essere stati con noi. Grazie a tutti voi. Grazie, buongiorno a tutti. Buona spesa a tutti, buon appetito a tutti. Noi ritorniamo domani con Nicoletta Carbone, una puntata speciale dedicata al Salone del Mobile. Cuore e denari.